It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, Kappa e Drago sono soggetti a distorsioni spazio-temporali. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Devi cercare di capire, Drago. Qui non cambia mai niente, è sempre tutto uguale. C'è la voce che declama in tedesco. Sì, eccola sì. Qua, rituale, lineare, sterzo. E poi i polli, Drago, guarda quanti polli. Sì, i polli, per forza. E il buio, e la cacca di galline per terra. Drago, stai attento, con la cacca di galline e poi... Però K qui è tutto uguale, no? È tutto uguale. E a me sembra di essere qui da 15 giorni, invece è ancora mezzanotte. Vabbè, ma ormai dovrebbe esserti chiaro che siamo finiti in un angolo della Terra soggetto a distorsioni spazio-temporali. Ma che distorsioni spazio-temporali? Parli come un comandante di un'astronave degli anni 50. In quel momento, ai confini del sistema solare... Tenente Suzulu, si tenga pronto! Fra poco attraverseremo le fasce di Grogog e il tempo si fermerà. Le fasce di Grogog! Presto! Se per caso rimaniamo incastrati tra le fasce di Grogog, l'universo continuerà a invecchiare, mentre noi rimarremo per sempre giovani. 19 forever, yes I'll be 19 forever. 19 forever, yes I'll be 19 forever. 19 anni per sempre. E a te piacerebbe? Beh, ma certo. Pensaci bene. In che senso? Pensaci bene. Brufolo, prima della festa in discoteca. Gli altri hanno già la macchina e tu hai il ciao. Studi 36 ore filate strafatto di play jean e ti bocciano all'esame di maturità. Fingi gay per evitare la naia e ti ritrovi con un c***o nel culo. 19 forever, yes I'll be 19 forever. 19 forever, I hate to be 19 forever. La fabbrica di polli. Nel corso del loro pellegrinare lungo gli oscuri corridoi della fabbrica di polli, Kappa e Drago hanno incontrato un solo essere umano. Egli è un uomo dotato di un incomprensibile senso dell'umorismo e di un'acidità mentale che nemmeno il bicarbonato è mai riuscito a neutralizzare. Si tratta di l'amministratore delegato della fabbrica di polli. Allora, siamo appena tornati da St. Moritz, dove abbiamo fatto questa riunione fondamentale. Sono passate 3 ore. Le prime 3 ore abbiamo discusso delle nuove saponette intime per le toilette dell'azienda. Purtroppo mancavano i voti. Il capo dell'ufficio acquisti ha fatto le solite scemate, non ha portato i report giusti, ha sbagliato il nome della marca e così abbiamo dato i soldi al fornitore sbagliato. Un disastro è stato. Poi l'abbiamo messa a posto, un po' più tardi, ma abbiamo dovuto fare altre 3 ore di riunione. Prendere avanzi dal frigo, mettere acqua sul fuoco, mescolare prima che siano scotti. Do you want spaghetti a mezzanotte? Do you want spaghetti a mezzanotte? A mezzanotte. In the middle of nowhere. La fabbrica di polli. Come si fa a decidere chi destinare alla ristrutturazione? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso in consiglio di amministrazione di fare una gara tra i dipendenti durante le ore libere della riunione fuori porta. C'erano due idee brillanti, secondo me, la gara di go-kart e la corsa nei sacchi. Per quanto riguarda la gara di go-kart, si era deciso di schierare 15 go-kart sulla linea di partenza e invece di mettere benzina in tutti i go-kart, in uno veniva messa una bomba, per cui 14 go-kart partivano e uno esplodeva. Non c'era neanche bisogno di licenziare il dipendente, moriva sul colpo, pagava l'assicurazione. Invece poi si è deciso per la corsa nei sacchi. La bomba nei sacchi però si vedeva e allora abbiamo deciso di riempire di guano uno dei sacchi. E quindi il povero Scattini ha trovato il sacco col guano. 3 mesi dopo era sul lastrico, in mezzo a una strada, licenziato. Povero Scattini. Adesso Cap, dai, tu sei qui che generalizzi l'arte. Mi stai l'arte. Dicendo che anche la fabbrica di polli è un'opera d'arte? Ma certo, Drago, un'opera d'arte un po' inusuale, ma sempre un'opera d'arte. Bah, io vedo solo un posto allucinante. Ma non essere gretto, Drago, tu sei sempre gretto. Guarda che non è che sono gretto, Cap, è solo il mio antidoto contro la tua visionarietà. Bisogna tenerti a freno, se no sbarelli non ti si becca più. Sbarelli non ti si becca più, okay. Drago, per favore, non hai più 18 anni, anzi 19. Forena, no, cerca di imparare ad esprimerti in maniera adeguata. Ma in maniera adeguata a cosa? Alla fabbrica di polli? Magari. Quale sarebbe la maniera adeguata? Hai una mentina? La capitale della Cecenia? Che ora è? È troppo tardi. Drago, l'arte nei secoli ha fatto tanta strada. Non è detto che tu abbia un quadro preciso di quel che è successo nel XX secolo, non è detto. Non ho un quadro preciso di quel che è un quadro del XX secolo. No, vabbè, ma per chi mi prendi? Il XX secolo, Picasso, Keith Haring, Cattelan, ecco, appunto. Braque, Basquiat, Warhol, Jeff Koons. Sì, Jeff Koons è quello che preferisci. Ma perché il tuo qual è? D'Annunzio. D'Annunzio? Ma D'Annunzio non era mica un pittore. Cosa c'entra? D'Annunzio era un artista totale. D'Annunzio era solo d'annunziano. D'Annunzio era dannatamente d'annunziano, ma non solo, era anche a ben vedere warholiano. Ma chi? D'Annunzio. D'Annunzio. D'Annunzio warholiano. Ma quando Warhol nasceva a Pittsburgh nel 1928, D'Annunzio era già nel suo buon ritiro sul lago di Garda a farsi togliere le costole, quindi... Warhol e D'Annunzio sono accomunati da una cosa, invece. Vivevano tutti e due la loro vita come un'opera d'arte permanente e in continua costruzione. La biografia e l'arte coincidevano, hai capito, Drago? Ah beh, certo, che bella biografia. Un po' come me. Cosa? No, non per fare il modesto, ma anche la mia vita, al di fuori di questo posto infernale e puzzolente, anche la mia vita è un'opera d'arte. Ah sì, la tua vita? Sì, anzi, facciamo prima. Io sono un'opera d'arte. Sì, un'opera d'arte di Piero Manzoni. Che stronzata! La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen, good night.